Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Uno studio del Karolinska Institute di Stoccolma dimostra che molte persone positive al Covid-19 con sintomi lievi o assenti risultano negative al test sierologico ma sviluppano una immunità pur senza avere anticorpi. A Obiettivo Salute la dottoressa Ariela Benigni, coordinatore delle ricerche dell'Istituto Mario Negri di Bergamo e segretario scientifico. Dottoressa Benigni, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, che cosa dimostra lo studio del Karolinska Institute? Farei una piccola premessa. Dobbiamo considerare che la maggior parte delle persone, per fortuna, è colpita dal nuovo coronavirus, ma in modo non grave o addirittura può rimanere sintomatica. Non sappiamo se queste persone hanno sviluppato un'immunità contro il coronavirus perché spesso non hanno anticorpi, non li troviamo in laboratorio. Lo studio del Karolinska dimostra che in pazienti che hanno avuto sintomi lievi di Covid-19 o nei familiari asintomatici esposti al contagio esiste un'immunità aggiuntiva, che è un'immunità adattativa, quella che chiamiamo noi in gergo. Questi soggetti sviluppano immunità attraverso linfociti T specifici contro il virus dopo mesi dall'infezione o dall'esposizione e non hanno anticorpi. Questi linfociti T sono linfociti T della memoria perché si ricordano di aver incontrato il virus e ci difendono da un'altra infezione. Adesso dobbiamo stabilire se una risposta delle cellule T della memoria in assenza di anticorpi protegga dal Covid-19 e per quanto tempo. Dottoressa Benigni, lo studio offre quindi elementi per capire come funzionerà il vaccino? Sì, ci offre lo spunto per capire bene com'è la nostra immunità contro il coronavirus. Sicuramente una parte di immunità è segnalata ad anticorpi, ma esiste anche un'immunità adattativa che non riusciamo a mettere in evidenza con anticorpi, quindi sarà utile poi quando il vaccino sarà sviluppato verificare anche questa seconda parte di immunità. Grazie dottoressa Benigni per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a voi. Vi aspetto come sempre sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute per i nostri appuntamenti a tu per tu. Oggi con noi il dottor Andrea Franzetti, primario di otorino laringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Parliamo di orecchio in estate. Vi aspetto, non mancate. Buona giornata.